Scrivo sul quaderno, è tutto tempo perso, e tu che sei al di là del mare, Dio non ho che te. Qui dentro l'anima disfo le valigie, chiamo le mie amiche, poi ho ancora da studiare, Dio che c'è. In quelle pagine da domani tutto come sempre tornerà, la gente, il traffico in città, non voglio amare più così. Senza te che vita è? Ogni sera esco e tu sei lì che guardi me, da quella foto al mare, Dio, ti chiuderei in una scatola. Mi ha telefonato quella che non molla mai, ma se l'amassi forse io potrei con lei dimenticare te. Poi delle vacanze quanto se ne parlerà, storie leggere dell'età. Voglio amare più così, voglio anche scherzare, non drammatizzare, ma più parlo e più ti vedo qui con me. Non voglio amare più così, io senza te.